sai, faccio da solo. Nei miei occhi verdi o nei miei occhi socchiusi, vedo mari e vedo laghi salati. Svelto come un passo indietro, svelto come un passo indietro. Cado giù, poi ritorno su, poi ricado a picco, alzo gli occhi al cielo, guardo giù nel vuoto. Cado giù senza alcun respiro, mentre il mio sorriso dolce mi avvelena, chiudo gli occhi e piango. Mi sento forte, salvo e cado giù, ma cerco un appiglio, muoio di allegria tra gli amici miei, poi mi sento solo. Cado giù tra le malinconie fatte di giorni persi, e nessuno mai mi tende una mano. Perdonami, perdonami, non sono anch'io per te come mai. Come sono vivo mentre i pensieri miei muoiono dentro. Sono stanco ma non mi piego, ma se riesco sai, sono sfinito. Le mie lacrime nei miei occhi deserti, le mie mani oneste, i miei pensieri ladri, ma non credo nel destino, per destino non ci credo. Amici miei,